racconto una storia, tutta sole, tutta gloria, dove tutto è verità, solamente verità. Ogni volta che ti vedo, non parlare già ti credo, e ci sei soltanto tu, ogni giorno solo tu. Più. Mai sentito più sereno, ho raggiunto il mio destino, disperati come me, non ne avevo visti mai, ero meno di nessuno. Poi ho preso la tua mano, la mia musica sei tu, ogni giorno solo tu. Amo, t'amo, amo. Ti amo sempre più. Veloce il tempo vola, più io sento il cuore in vola. I just can't go another day, sogno il giorno che dirai, until I can hear you say, amo. You.